Ricordate, se la persona non appartiene al gruppo, il sigillo è chiuso. Quindi, se appartiene al gruppo, come dovrà essere il sigillo?